se prendi ancora un po' di noia non sei più tu. Che se prendo ancora la mia droga mi tira su e non puoi riprendermi. Sposare.